stato sociale in questo momento sul palco del primo maggio. Sono giovanissimi, il più anziano ha 31 anni. Loro si sono conosciuti in uno studio radiofonico, perché tre di loro erano proprio degli speaker radiofonici e poi hanno invece fondato nel 2011 la band che stiamo ascoltando, lo Stato Sociale. Con la palla e non con la catena. Sono 10 stagioni che ti amo, ed ora in più che sono rimasto senza di te. Hai detto tu non ti comporti da vero uomo, se stiamo insieme deve esserci un cliché. Che si fa esplodere il seno sulla luna. Za, za. Buonasera Roma!